Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi in primo piano il programma Garanzia Giovani con la nostra intervista a chi operativamente sta coordinando dal Ministero del Lavoro gli sforzi per implementarla. Cercheremo soprattutto di fare chiarezza sulla qualità delle proposte di lavoro e formative. E oggi voleremo anche in Gran Bretagna per tornare a parlarvi di giovani avvocati che prendono la strada dell'estero. Riprenderemo infine le vostre lettere di protesta su controesodo a suggellare un mese in cui abbiamo diffusamente parlato del destino di questa legge, la 238/10, nata per incentivare il ritorno dei talenti in Italia e ora nei fatti abrogata. La frase della settimana è copyright di Alberto Locke, 29enne cagliaritano ricercatore a Basilea nel campo della neurobiologia. In un'intervista all'agenzia di stampa ANSA ha dichiarato: cervelli in fuga? No, paesi attrezzati ad accoglierli. Le persone, i giovani, non fuggono, si spostano, viaggiano e si stabiliscono nei paesi dove possono realizzarsi, dove vengono accolti e possono crescere. I dati Eurostat intanto denunciano l'Italia al più ampio divario regionale per la disoccupazione giovanile. In Calabria raggiunge il 60% della forza lavoro a fronte del 12% di Bolzano. Il livello più alto per i giovani inattivi in Europa si registra proprio nella penisola col 29%. E secondo l'Ocse l'Italia spicca come il paese in cui è maggiore il divario, ben 28 punti, tra il tasso di disoccupazione generale e quello dei giovani. Persino in Spagna e Grecia il gap non è così forte. Su questo sfondo non c'è così da stupirsi se tra due offerte di lavoro, una in Italia e l'altra all'estero, beh, alla fine numerosi giovani scelgono la seconda strada. Il mio studio ha veramente puntato su di me, mi ha offerto un contratto di lavoro per 4 anni e si è fatto carico di tutte quante le spese di formazione per farmi diventare avvocato, che ammontano a circa 50.000 euro. Billy De Luca, 27 anni, è un avvocato presso uno dei 4 maggiori studi legali britannici. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Oggi focus speciale sul programma comunitario Garanzia Giovani in scadenza fine anno, programma che una volta lanciato ha fatto molto parlare di sé anche per gli obiettivi ambiziosi che si poneva. Quando mancano solo 2 mesi alla chiusura del progetto a livello europeo, tracciamo un bilancio con Bruno Busacca, responsabile della segreteria tecnica presso il Ministero del Lavoro. Busacca mette in chiaro: pensiamo di andare avanti anche con fondi nazionali e per cominciare gli abbiamo chiesto se sia soddisfatto dei risultati fin qui conseguiti. Ovviamente la risposta non può che essere no, nel senso che non bisogna mai essere soddisfatti delle cose che si fanno. Però, francamente, rispetto alle preoccupazioni che avevamo all'origine, il programma in realtà nel tempo ha cominciato a funzionare meglio. E lo dicono i numeri. Intanto lo straordinario numero dei giovani che si è registrato. Siamo un po' sotto gli 850.000. È un numero enorme. Ma anche la risposta, che all'inizio era difficile e faticosa da parte dei centri per l'impiego, dei servizi pubblici, continua costantemente a migliorare. I presi in carico dai servizi pubblici superano le 500.000 unità. Andiamo sull'altro fronte anche, che sono le offerte in termini sia di opportunità, certo, formative, ma soprattutto di opportunità di lavoro. Qui che numeri abbiamo? Qui abbiamo superato le 200.000 unità. Teniamo presente che ovviamente questa è la cosa che è partita con più difficoltà. Ecco, io ho visto anche legittime polemiche su questo punto, troppi tirocini, troppo questo, troppo quello. Teniamo presente che in realtà noi abbiamo chiamato Garanzia Giovani quello che in ambito comunitario si chiama l'iniziativa per l'occupazione giovanile. In realtà Garanzia Giovani nell'accezione comunitaria è tutto quello che si fa per i giovani. Le do un esempio a questo proposito: la decontribuzione che sta producendo circa 1.000.000 e oltre di nuovi contratti a tempo indeterminato. Quasi il 25% di questi contratti riguardano giovani tra i 15 e i 29 anni. In realtà anche quella è una misura che si iscrive nell'ambito complessivo delle misure per i giovani. La finalità del programma è aumentare l'occupabilità. Se posso riassumere, dare le skills ai giovani per poi insomma potersi muovere meglio, certo, nel mercato del lavoro. Tornando al tema offerte, lei l'ha citato, ci sono state polemiche anche sulla qualità, certo, di queste offerte, certo, tirocini eccetera. Personalmente è soddisfatto oppure le imprese potrebbero fare un po' di più? Ma vede, intanto l'esito è ovviamente differenziato in relazione alle situazioni dei mercati del lavoro delle singole regioni. È del tutto evidente che la Lombardia ha più occasioni di lavoro della Calabria. Il programma Garanzia Giovani incide sulle realtà vere territoriali del paese. Io ho l'impressione che anche sotto questo aspetto le imprese, superate una iniziale diffidenza, comincino a rispondere. Qual è il futuro di Garanzia Giovani? Andrete avanti anche eventualmente senza finanziamenti europei, se non ci dovessero poi più essere? Intanto noi continueremo a premere perché l'Unione Europea rifinanzi l'iniziativa per l'occupazione giovanile. L'intenzione è di non chiuderla, l'intenzione è comunque di mantenere aperto un'iniziativa rivolta ai giovani, anche con risorse nazionali. La nostra trasmissione si occupa di giovani che vanno all'estero in cerca di opportunità che non trovano in Italia, lo sappiamo, questo è un problema. Qual è il suo messaggio a questi giovani? La situazione complessiva sta migliorando. Noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro tra il 2008 e la fine del 2013. Da metà del 2014 ad oggi ne abbiamo recuperato oltre 300.000. E la situazione complessiva è in miglioramento. Per cui io credo che tutti, non solo i giovani, possano guardare al mercato del lavoro anche con prospettive diverse di quella degli anni orribili della crisi. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra, mecca di sogni e desideri per decine di migliaia di giovani italiani in questo scorcio di terzo millennio. Nome: Willy. Cognome: De Luca. Età: 27 anni. Città di origine: Roma. Studi: laurea in giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? Inghilterra. Perché? Ho frequentato un master in diritto e finanza ad Oxford. Qual è il lavoro svolge attualmente? Avvocato. Dove? A Londra. Tornerai? Sì, ma non so veramente ancora quando. Ready to go. Ora che ho iniziato a lavorare, ho potuto toccare con mano quello che prima era solo un'idea, ti posso confermare che il mercato del lavoro inglese punta veramente sui giovani. A soli 3 mesi dal primo giorno di lavoro mi trovo già a curare interi aspetti di enormi transazioni da solo con rapporti diretti col cliente. Vi è ovviamente una gerarchia interna e un rapporto di subordinazione, ma il giovane viene trattato a tutti gli effetti come un vero professionista. Così Willy scrivevi un anno fa a giovanitalenti@radio24.it. È questa, a tutt'oggi, la reale differenza tra il mercato del lavoro anglosassone e quello latino, il considerare giovani una risorsa e non solo materia prima da sfruttare? Guarda, assolutamente sì, sono veramente convinto di questo. Uno dei mantra veramente qui nella City di Londra è che i giovani saranno i leader di domani. Quindi il successo di lungo periodo di un'azienda dipende veramente da quanto si investe nella formazione del singolo. E questo mantra non è solamente a parole, ma si vede anche nei fatti. Infatti dalle condizioni contrattuali alle risorse che vengono investite per formare i giovani, si vede veramente che i giovani qui sono visti come assolutamente delle risorse e risorse fondamentali. Torneremo a sviluppare questo tema. La tua storia prende le mosse da una laurea in giurisprudenza alla Bocconi di Milano e la prima domanda è: perché hai puntato le tue carte su questo percorso di studi? Giurisprudenza innanzitutto mi ha sempre affascinato e poi penso che sia una di quelle materie che probabilmente garantisce ampi sbocchi professionali. Già durante gli studi in Italia hai sperimentato un periodo all'estero con un programma di scambio studentesco all'ESADE di Barcellona. In breve, quanto quel primo periodo oltre confine è stato poi fondamentale nell'influenzare le tue scelte successive? Penso veramente che l'esperienza a Spagna è stata una delle più importanti che ho fatto. In un numero il tuo voto all'università italiana? 10 per la preparazione teorica, però 5 per la preparazione pratica. Nella lettera che ci hai inviato hai messo nero su bianco le differenze fondamentali tra il sistema educativo italiano e quello anglosassone. Le idee le hai ben chiare, il tuo atto d'accusa è rivolto alla preparazione che i nostri atenei dovrebbero fornire per il mondo del lavoro, sostanzialmente una formazione che non danno. Dov'è il problema? Secondo me il problema vero sta nel fatto che l'università italiana è ancora troppo radicata sulla teoria e troppo poco sulla pratica. Io sono dell'idea che nessuno discute l'importanza di una preparazione teorica solida, però bisogna anche preparare il giovane ad affrontare il lavoro. Dai problemi dell'università a quelli del mercato del lavoro, ai quali arriveremo tra poco. Prima però torniamo alla tua storia. Tra l'autunno 2011 ed estate 2012 ti sposti in Gran Bretagna per un master in diritto e finanza ad Oxford. Quale valore aggiunto ti ha fornito quell'esperienza ad altissimo livello? Sicuramente il peso sul curriculum di un nome come Oxford è sicuramente grande, però io penso che il vero valore aggiunto di un'università come Oxford, così come Cambridge, Harvard, Princeton, è il network a cui ti viene dato accesso. In tutti quanti gli studi legali a cui ho fatto domanda qui a Londra, vi era sempre almeno un ex alunno di Oxford con il quale mi sono potuto mettere in contatto e con cui ho potuto parlare prima del colloquio. Questo sicuramente è un valore aggiunto assolutamente incredibile. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Willy De Luca, 27enne avvocato in Gran Bretagna. Willy la sua scelta l'ha fatta presto, quando ha ricevuto due offerte di lavoro, una qui, l'altra oltre Manica. Lui non ha avuto dubbi e non se n'è pentito. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Nel frattempo vinci il premio Freshfields quale miglior laureato in giurisprudenza d'Italia, è il 2012, e ricevi due offerte di lavoro. La prima è in Italia, poco dopo ne arriva una seconda, è dalla Gran Bretagna. Entrambe sono di alto livello. Qui si apre il bivio della vita. Quale delle due scegli e soprattutto perché? Io ho scelto Londra e i motivi sono stati sostanzialmente due. Da un lato le condizioni contrattuali che mi vengono offerte e dall'altro la voglia di misurarmi su un palcoscenico secondo me più internazionale. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, a Londra mi è stato offerto un contratto per 4 anni con condizioni contrattuali e salariali veramente chiarissime. In Italia mi era stato offerto semplicemente uno stage, sì, retribuito, ma di soli 6 mesi, senza nessuna garanzia di assunzione al termine dello stesso. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Gli studi legali nel Regno Unito investono fortemente sulla formazione dei giovani, in quanto vengono visti come una risorsa chiave per lo sviluppo futuro. In Inghilterra si può crescere professionalmente in un ambiente che punta sui giovani, dando loro lo spazio necessario per crescere e migliorare. Rifletti. A posteriori mi sembra di capire che tu non ti sia pentito della scelta. Potremmo quindi sintetizzare dicendo che la mentalità del lavoro italiana guarda troppo al breve termine, sfruttando la voglia di mettersi in gioco del giovane, mentre oltremanica si guarda al medio-lungo periodo, puntando a coltivare i talenti? Guarda, assolutamente sì. Per farti un esempio, il mio studio ha veramente puntato su di me, mi ha offerto un contratto di lavoro per 4 anni e si è fatto carico di tutte quante le spese di formazione per farmi diventare avvocato, che ammontano a circa 50.000 euro. Qua l'idea di fondo è proprio quella di prendere un ragazzo e farlo diventare un avvocato e seguirlo durante tutto quanto il percorso. Io ho scelto di emigrare non tanto per necessità quanto per opportunità, consideri. A che punto sei arrivato? Allora ti chiedo il tuo percorso e di cosa ti occupi. Ormai lavoro il mio studio da circa 1 anno e mezzo e lavoro all'interno di un team che fa fusioni e acquisizioni di grandi gruppi nel settore energetico. Spero che sia solamente l'inizio e devo dire che mi trovo veramente molto molto bene. Ricordo solo che il tuo studio è uno dei 4 più importanti della City londinese e la domanda di rito è: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Più sono all'estero più mi rendo conto che l'Italia è come un giovane di moltissimo talento che però fatica a sbocciare, a sfruttare appieno le proprie risorse, e più stando all'estero me ne rendo conto. Nell'Italia e nell'italiana abbiamo assolutamente niente da invidiare a nessuno. Ma finché non ce ne renderemo conto, secondo me sarà molto difficile ripartire. Per quanto riguarda la proposta concreta, io penso che una cosa che si può assolutamente fare è investire di più sui giovani, aumentando le borse di studio di merito per tutte quante le persone, disagiate e non, per permettere a tutte le persone che hanno talento di contribuire alla ripartenza. Ci raggiunge ora in linea Gian Diego Pini, collega di Willy rimasto in Italia, lavora presso uno studio legale a Milano, specializzato in antitrust. Gian Diego temporaneamente è negli Stati Uniti, infatti ci raggiunge dalla California. Buon pomeriggio, anzi buonanotte. Buongiorno Sergio, grazie dell'invito. Allora, molti validi ragazzi italiani tendono a guardare all'estero, dove c'è un mercato del lavoro disposto ad accettare e premiare giovani talentuosi. Così ci scriveva qualche mese fa Willy. Tu, Gian Diego, che vivi tra Milano e gli Stati Uniti, quanto condividi questa affermazione? In Italia, insomma, non c'è speranza. L'affermazione la condivido pienamente, ovviamente. Dal mio punto di vista l'accento va posto in particolare sulla difficoltà a premiare i giovani talentuosi. Si parla spessissimo di fuga di cervelli, salvo poi non distinguere tra fuga di cervelli e fuga di crani. Se si vuole guardare al futuro dell'Italia, non si deve guardare esclusivamente ai giovani che non trovano lavoro, ma soprattutto ai giovani che troverebbero lavoro, ma non sentendosi riconosciuti e valorizzati preferiscono l'estero. Tu perché hai deciso di restare in Italia? Sei soddisfatto di questa scelta? La mia decisione di rimanere in Italia in realtà è legata a moltissimi fattori, tra questi anche il fatto che in tutto quello che ho fatto, bene o male, sono riuscito bene. Vedo le limitazioni, vedo moltissimi stimoli, diciamo, a guardare all'estero e non posso escluderlo come possibilità. Tra l'altro tu appunto sei attualmente a Berkeley, California, dove stai concludendo la tesi di dottorato, e con te però parliamo anche del sito Lex Index che hai fondato con Villi e con un altro vostro collega. Primo sito completamente indipendente, liberamente accessibile e gratuito, pensato per studenti, praticanti e giovani avvocati. Cosa pubblicate su Lex Index? Il sito ha lo scopo di rendere più trasparente il mondo legale, molto semplicemente. Vuole fornire informazioni e strumenti agli studenti e ai giovani praticanti e avvocati per fare scelte più consapevoli. Quindi su Lex Index pubblichiamo informazioni sugli studi legali, pubblichiamo il profilo del loro candidato ideale, la tipologia di lavoro che andranno a svolgere nelle differenti aree di specializzazione, come si diventa avvocati o si pratica la professione all'estero, le offerte di lavoro e tantissime altre. Gian Diego, in un mondo nebbioso del lavoro come quello italiano, la vostra è una bella provocazione. E come stanno reagendo gli studi legali a questa provocazione? Diciamo stranamente, forse molto bene, nel senso che in realtà gli studi legali si sono dimostrati molto interessati all'idea, tutti gli studi a cui l'abbiamo presentato e fino ad ora l'abbiamo presentato e partecipano più di 30 studi, tra i maggiori studi italiani e internazionali, si sono dimostrati molto molto interessati e hanno creato il loro profilo. Abbiamo visto una certa inerzia, diciamo, da parte degli studi, da parte e da parte appunto delle persone che dovevano poi concretamente occuparsi di fornirci le informazioni. Questi problemi si sono risolti col tempo, ma appunto di tempo ce n'è avuto parecchio. Continuate a provocare, mi raccomando. A livello di condizioni contrattuali e prospettive di crescita, però, sulla base anche della vostra esperienza con l'Ex Index, resta ancora molto ampio il divario tra Italia ed estero per un giovane aspirante avvocato? Sì, assolutamente. Sia io appunto adesso negli Stati Uniti e prima in Italia e Villi in Inghilterra abbiamo potuto vedere come le retribuzioni, appunto le prospettive di carriera che hanno i nostri colleghi all'estero sono completamente diverse da quelle dei nostri colleghi in Italia, diciamo. In particolare quello che è veramente strano, diciamo, è il fatto che la stessa persona con lo stesso background, semplicemente avendo studiato in due paesi differenti, all'interno dello stesso studio è pagato molto diversamente, anche nell'ordine appunto del doppio o più del doppio all'estero. Grazie a Gian Diego Pini, in bocca al lupo sia per il sito sia anche per la tua esperienza negli Stati Uniti. E domanda di rito per Villi De Luca: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Guardate all'estero, però quando si guarda all'estero secondo me bisogna guardare con un programma veramente ben preciso in mente. Lasciare l'Italia tanto per lasciarla o sperando di trovare un qualcosa una volta che si arriva a destinazione, secondo me non è veramente il miglior modo di procedere. Londra, come New York, come Parigi, come le grandi metropoli internazionali, offrono veramente tantissime occasioni, però per ogni occasione vi è anche moltissima competizione. Quindi o si hanno le idee ben chiare, o si ha un programma veramente ben definito, o se no sarà veramente molto difficile riuscire ad avere successo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere di progetto specializzato in energia eolica per DNVGL a Parigi, scadenza per sì 31 dicembre, info su carriera-dnvgl.ichims.com. Amnesty International cerca il capo dell'ufficio di New York, richiesta esperienza a livello internazionale, scadenza per CV 4 novembre, info su careers.amnesty.org. E infine una posizione postdoc all'interno di un gruppo di ricerca specializzato in biologia e matematica alla Austrian Academy of Science a Vienna, scadenza per CV 30 novembre, curricula a christian.schmeiser@univie.ac.at. E siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi, come ogni ultimo sabato del mese, spazio alle vostre lettere, quelle che inviate ogni giorno a giovanitalenti@radio24.it. Nelle ultime settimane siamo stati sommersi da missive di protesta sulla soppressione nei fatti della legge contro esodo. Molte ne trovate sul blog ufficiale di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Ne leggiamo una a nome di tutti, quella di Paolo, nome di fantasia. Voi continuate a scriverci e a dirci la vostra, giovanitalenti@radio24.it. Mi considero un cittadino del mondo, avendo lavorato e vissuto in Norvegia, Russia, Brasile, Inghilterra, imparando tutte le lingue di quei luoghi. Ora lavoro in Inghilterra come manager nel settore IT e vorrei raccontare la mia situazione in relazione alla confusione delle due leggi per il rientro dei cervelli, nella speranza che qualcuno si ricordi di me, e immagino di molti altri, nei decreti attuativi che saranno pubblicati. A marzo 2015 ho deciso di tornare in Italia per usufruire della proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli al 31-12-2017, entrata in vigore a febbraio 2015. ho iniziato la ricerca di un lavoro, dove avrei potuto usare le competenze ed esperienze maturate in questi anni. Inoltre, in parallelo, innamorato e orgoglioso come sono dell'Italia, ho gettato le basi per aprire delle case vacanze nelle bellissime Marche, mia regione nativa. Nel mio piccolo, a tempo perso e con l'aiuto di amici, vorrei contribuire in un settore con enormi potenzialità, ma con pure tanta improvvisazione e pressapochismo. Dopo mesi di ricerche e colloqui, ho ricevuto un'offerta di lavoro da un'azienda americana con filiale in Italia il 16 settembre. Il giorno stesso mi sono licenziato dall'azienda inglese, per poi scoprire che il decreto legge 147 del 2015, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 22 settembre, abrogava l'estensione dei benefici della vecchia legge al 31/12/2017. La data di inizio del nuovo lavoro sarebbe il 10 novembre, posteriore all'entrata in vigore della nuova legge, 7 ottobre, e a quella data non avrei nemmeno maturato i 5 anni all'estero. Quindi non rientrerei nella nuova legge, né potrei usufruire della vecchia in quanto sarebbe stata abrogata. Dopo vari consulti con diversi commercialisti, ho deciso di anticipare il rientro a prima del 7 ottobre, con penali e problemi logistici che potete immaginare, nella speranza che i decreti attuativi della nuova legge applichino agevolazioni di qualsiasi tipo e durata che compensino l'abrogazione di fatto della legge per la quale ho preso la decisione di tornare. Spero insomma vivamente che il governo si renda conto di aver fatto una promessa a tanti cervelli e che noi ci siamo fidati di lui. Giuro che all'uscita della nuova legge mi ero già pentito di aver deciso di tornare, perché queste cose mi fanno pensare che l'Italia non cambierà mai. Un motivo per restare o tornare. Le grandi marche italiane cercano talenti tra i neolaureati, ma non sempre i profili soddisfano le attese, a partire dalla conoscenza delle lingue e quanto emerge da un'indagine Alma Laurea e Centromarca. Il 60% delle aziende prevede da 1 a 20 inserimenti di neolaureati questo biennio, l'11% ne vede oltre 50. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog dei giovani talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è benefici fiscali, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di ottobre. La legge contro esodo viene nei fatti cancellata dalla nuova norma per il rientro dei cervelli col bonus fiscale limitato al 30%. Meglio così per fare maggiore chiarezza normativa o un'ingiusta discriminazione verso chi aveva i requisiti per rientrare con la vecchia legge, prorogata per un biennio solo pochi mesi fa e ora soppressa? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.